thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone to the other side. Apriamo, scusate, ciao a tutte, ciao a tutti, apriamo questa trasmissione con una profezia. La profezia dell'eretica dell'autodifesa femminista di Genova. Ci hanno chiamato streghe, lesbiche, pazze, emarginate. Con tutti i nomi disponibili ci hanno ricondotto al confine della comunità, pronti a buttarci giù dalla passerella dei normali. Ci hanno rinominato, ridefinito, creato immagine e somiglianza delle loro paure e dei loro desideri repressi e innominati. Noi ci siamo riprese i nomi, ci siamo richiamate streghe per rivendicare il nostro sapere, eretiche per resuscitare la nostra ribellione, pazze perché attorno a noi abbiamo riconosciuto altre sognatrici. Oggi che i nomi sono nostri e non hanno più a loro disposizione né la forza repressiva né l'immaginario colonizzato di un tempo, sono ridotte al silenzio. Fingono austerità perché le loro voci sono deboli, fingono serenità perché i loro diavoli sono demoni tristi e non spiriti ribelli come i nostri, che possono danzare e lottare nelle strade. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa trasmissione ha un titolo importante. L'abbiamo intitolata La morte nella società del capitale. È perché da diverso tempo ci eravamo ripromesse di affrontare il tema della morte, perché è un tema che assolutamente passa sotto silenzio. È quasi come se qualcuno o qualcuna ci impedisse di pensarci tutti i giorni, o comunque un tema rimosso, tanto più in questo tipo di società. Siamo qui con le compagne, siamo qui con una compagna della redazione che ha fatto un bellissimo lavoro sul tema della morte, che ci è piaciuto tanto, e quindi le abbiamo chiesto di parlare insieme a noi. Quindi ti passiamo un attimo la parola. Sì, in realtà il lavoro che io ho fatto era sull'assistenza ai morenti, ma per arrivare alla non assistenza ai morenti, poi tutto sommato, che è una caratteristica proprio della nostra società moderna, anche possiamo chiamarla la società del capitale, bisognava arrivarci partendo proprio dalla concezione della morte, non solo com'è oggi nella nostra società, ma com'era nel passato, perché ovviamente anche questa, come tante altre questioni, non può essere disgiunta dai sistemi economici, dai rapporti di produzione. Certo. È come tutte le cose che sembrano scaturire così, intatte, non condizionate da altro, assolute, invece assolutamente, scusate il gioco di parole, rispecchia proprio le strutture della società che poi ne determinano il concetto e la fruizione. E so che quando si parla di questo ovviamente si va dai gesti apotropaici a occhi sgranati eccetera, però se ci pensiamo bene è vero che c'è una grossa contraddizione in noi esseri umani sulla questione della morte, che è quella della consapevolezza, forse siamo, non possiamo saperlo con certezza, ma insomma, essendo esseri pensanti dotati di corteccia frontale, noi possiamo pensare alla nostra morte, ma la pensiamo a un livello ovviamente razionale. A un livello irrazionale, o come qualcuno può dire inconscio, la morte per noi non esiste, perché il nostro essere ovviamente non può concepirla nel suo profondo. Noi non possiamo immaginare né un prima, anche se è più facile farlo dove non esistevamo, ma ancora di più è difficile, è impossibile immaginare un dopo dove noi non esistiamo. Il prima ci viene raccontato, no? E poi diciamo alla conclusione con la nostra nascita. Il dopo è inconcepibile. Però su questo, come dicevo, questo problema, questo aspetto, questa questione non è una questione che è individuale, perché questa società soprattutto non lascia niente all'individuo, a differenza di cioè non lascia niente all'individuo perché si sovrappone all'individuo, ma al contempo non ne fa un qualche cosa che possa essere vissuto collettivamente, come invece per esempio era nel passato. E praticamente l'aspetto individuale viene trasformato in una rimozione, e l'aspetto che dovrebbe essere collettivo viene reso poi individuale. Quindi sì, individuale nel senso modi, della solitudine, certo. Esatto. La solitudine del morente, per esempio, è un altro dei libri che io ho letto preparando questo lavoro. E quello che noi vediamo, soprattutto facendo un excursus storico che vi risparmio, è che la morte nel passato era assolutamente presente. Lasciamo perdere l'aspetto religioso, ovviamente, no? Il memento mori, no? E tutta l'iconografia, anche soprattutto medievale, intorno alla morte, che aveva una sua ragion d'essere soprattutto nel dominio religioso. Però cosa è successo dopo? È successo che la morte è stata completamente rimossa, non nel senso che dicevo prima, ma anche dal linguaggio, per esempio, no? È vero che noi viviamo in una società dove la morte ci viene presentata molto più di prima, no? Attraverso anche tutti i media, eccetera, la viviamo continuamente, la vediamo continuamente, anche in modo abbastanza raccapricciante, però è sempre qualche cosa, secondo me, che rimane abbastanza estranea a noi, fino a quando magari non ci tocca da vicino. Per cui, come riflettevamo tempo fa, che ne so, possiamo avere notizia di una strage di centinaia di persone, ci tocca molto meno, o dovrebbe toccarci molto meno, di magari della morte di un parente o di un amico o di un'amica. E questo si vede anche nel linguaggio, perché difficilmente qualcuno, anche a livello giornalistico, narrativo, dice il tale o la tale è morto, no? È scomparso, se n'è andato, che certe volte dici, se stai sovrappensiero, dici è andato dove, ci ha lasciato, è venuto a mancare, si è spento, eccetera. Però questa in realtà è morto, però questo non viene, difficilmente viene detto. Io ho preso una serie di appunti così un po' estemporanei su questo aspetto, che è un po' complicato, insomma. Mi scuso se sarò un po' così caotica, e anche però mi premeva per esempio citare un paio di frasi che magari possono spiegare meglio quello che intendo dire. E la morte è importante, perché è la morte che ci definisce in un certo senso, no? Perché è proprio il fatto di sapere che moriremo che può dare anche un significato diverso a quello che noi facciamo, cioè la consapevolezza che siamo finiti. E c'è un sociologo svizzero che ha scritto un importante libro, I vivi e la morte, che è un libro del 72, che dice proprio questo: è la morte che dà la vita, poiché la morte mi impone la coscienza della finitudine della mia esistenza. Essa conferisce ad ognuno dei miei gesti una dignità senza pari, e ad ogni istante che passa la sua unicità. Questo certo non è facile magari a dirsi, e nemmeno tanto, perché lui ovviamente ci è arrivato con un ragionamento. però a viverlo è complicato, ovvero si dice spesso vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Non è assolutamente questo che intende lui o che posso intendere io, è soltanto la consapevolezza dell'unicità della nostra esistenza e soprattutto del fatto che la nostra esistenza è unica per noi, ma è comunque indissolubilmente legata con quella di tutto il resto dell'umanità. Sembrano cose banali, ma in questo tipo di società non lo sono, a volte vengono affermate così in modo retorico, ma non lo sono. Quindi la società moderna, rispetto moderna intendiamo industriale, rispetto alla morte si comporta da una parte rimuovendola. Quindi c'era mia madre, per esempio, che diceva una frase spesso quando qualcuno si comportava in determinato modo, pensa come se dovesse campare in eterno, no? Ecco. Sì, è vero, e questo rende abbastanza l'idea. Dall'altro, la morte, la persona, l'individuo viene spossessato della sua morte, che viene assolutamente medicalizzata, soprattutto con l'allungamento della vita, ma non solo, medicalizzata, ospedalizzata, e quindi viene spossessato non solo l'individuo della sua stessa morte, che in fondo appartiene alla persona e solo la persona potrebbe decidere eventualmente se e quando magari porre fine alla propria vita, viene medicalizzato e si sovrappone una sorta di onnipotenza medica, e su questo la classe medica ha una grandissima responsabilità, ovviamente, per cui è inconcepibile. Cioè la medicina è tutta tesa a evitare la morte, a prolungare la vita, che mi direte è una cosa che ci fa piacere, entro certi limiti fa piacere. Poi però, se questo ci spossessa della possibilità di interpretare, di vivere la nostra morte, non è una cosa poi così positiva. Del resto anche negli ospedali, per esempio, la persona che è morta viene messa dietro un paravento, si dice per non turbare eccetera, in realtà perché a volte forse succede anche prima che addirittura muoia, proprio perché si crea una demarcazione netta tra chi è vivo e chi è morto. E questo è un altro aspetto, insomma, su cui varrebbe la pena di riflettere. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around, come on, won't you move over? Visto che ci stiamo già addentrando, diciamo, nel vivo di quello che poi sarà anche la seconda parte di questa discussione, perché appunto ci interessava guardare al fenomeno della morte in questa società, che quindi viene a configurarsi come una medicalizzazione e della malattia e della vera e propria morte, no? Con tutta una serie di misure che dopo affronteremo. Prima però di entrare così nel vivo della discussione, ci sembrava interessante anche prenderci un attimo per dare degli accenni storici, nel senso che se noi abbiamo deciso anche di affrontare questa discussione è sempre in una prospettiva, diciamo, di decostruzione di quello che abbiamo intorno, no? Anche di critica, quindi per fare una critica radicale bisogna andare appunto alle radici anche dei problemi e quindi dei fenomeni, e così questa carrellata storica sarà chiaramente molto superficiale per limiti di tempo, però è anche per darci così un po' di speranza, nel senso che non è sempre stata affrontata in questo modo la morte, non è sempre stata circondata dal silenzio e dalle espropriazioni, insomma, che viviamo in questo tempo. E prendiamo sempre a riferimento il lavoro appunto che ha fatto la compagna e procediamo un po' per salti. E nel mondo classico l'aspettativa di vita era drasticamente inferiore rispetto a quella di oggi, e non soltanto a causa appunto delle malattie, della mortalità infantile, del fatto che appunto il sapere medico curativo era molto più ridotto, ma anche per le guerre. E in questo contesto però la morte era in qualche maniera addomesticata, proprio perché era così vicina, così quotidiana, ed era addomesticata da una serie di rituali, da delle cerimonie anche collettive, e quindi veniva considerata nelle varie culture un passaggio, una transizione, un ricongiungimento, cioè veniva diciamo addomesticata, e quindi veniva attenuato questo carattere individuale, perché chiaramente la morte è un trapasso individuale, ma veniva ritualizzata e se ne faceva quindi un passaggio appena più drammatico degli altri, di altri passaggi che segnavano e scandivano comunque la vita sociale. E quindi in qualche maniera si moriva in serenità, circondati anche dalla propria comunità, aiutati. Con l'avvento del cristianesimo, quando non si moriva di morte violenta, che era molto comune molto ovviamente. I morti di morte violenta venivano però a quel punto come si dice, erano degli eroi, no? Cioè veniva sì, circondato. Loro... Non sempre, insomma, c'erano pure morti ammazzati nel fudico. No, no, ma infatti c'è nella seconda parte io volevo fare un appunto sulle morti di pace e morti di guerra, perché sono diverse. Chiaramente cambiando le coordinate cambia il paradigma. Poi insomma, appunto, accade il cristianesimo, e chiaramente c'è diciamo un'escatologia indistinta che si ha un'escatologia indistinta, si sovrappone l'idea della resurrezione finale, che però quindi cambia il paradigma, no? Il dopo la morte, però in questo senso si continua comunque a morire con serenità, perché questa resurrezione finale, questo giudizio finale è comunque molto al di là di venire, no? E quindi rimane un morire in serenità, circondati dai propri cari, eccetera eccetera. All'interno di questo quadro però avviene un mutamento, in questo lavoro si ripercorre nel Medioevo, in pieno Medioevo, nel 1100, in cui si compie un passaggio fondamentale, cioè si afferma l'idea dell'individualità, quindi ognuno è portatore di un suo proprio destino che non è identificato e sovrapposto a quello della specie. Quindi questo trapasso, questa modificazione, la morte, diciamo avviene, viene rimarcato il suo carattere individuale, no? Infatti vediamo anche come nell'iconografia, nella letteratura, lo spettacolo, la rappresentazione viene diversa, perché il giudizio, questo che appunto era da venire, viene invece spostato nella stessa camera del moribondo, dove all'insaputa dei parenti e di amici si svolge una lotta senza quartiere per il possesso della sua anima. In questo senso quindi il cristianesimo esercita un monopolio della morte, quindi diciamo questo delirio di morte viene anche da alcuni considerato come proprio l'essenza, l'osso stesso del cristianesimo, e c'è un'avversione, diciamo, anche da parte del cristianesimo nei confronti della morte. A un certo punto però, e qui arriviamo forse a il momento storico che più ci interessa, perché è quello che getta le basi dell'idea, della concezione della morte che poi arriva fino a noi, e che quindi in qualche maniera è qui che possiamo vedere i germi di questo paradigma occidentale capitalista, quello che appunto adesso affronteremo, è appunto l'epoca dei lumi, no? L'epoca dell'illuminismo, e quindi l'affermazione della ragione scientifica sopra quella religiosa. Questa maggior sensibilità scientifica sposta l'attenzione dal momento del trapasso della morte alla malattia e all'agonia, e fa arretrare la speculazione del giudizio finale. Quindi si fa strada il concetto di non pensare alla morte, cioè se prima la morte veniva vista arrivare e veniva accettata, a un certo punto gli illuministi incominciano a pensare come ideale, come desiderata, una morte che ci coglie in maniera imprevista. Incominciano per esempio a dire che è scortese parlare ad un vecchio della morte, incomincia quindi tutta una serie di accortezze che circondano questo evento, che non sono ancora il tabù che oggi viviamo, per cui appunto il riserbo che viene riservato a una persona che ha sofferto una perdita o a una persona che si sta avviando alla conclusione della sua vita non è ancora così repressivo, ma comunque incomincia ad affermarsi. E è una, diciamo, appunto, non è certo il tabù dell'oggi, ma piuttosto una lotta a viso aperto contro una paura che non viene derisa, ma per così dire analizzata con le armi della ragione. La morte viene demistificata, cessa di essere una punizione per divenire un fenomeno naturale, per cui è non soltanto legittimo, ma ragionevole difendersene o tentare di rinviare il momento. Questo mi sembra un passaggio particolarmente interessante, perché sottolineare l'emergere della ragione scientifica ci può far capire come questa, sì, da una parte ci permette di riappropriarci della morte in quanto esperienza individuale, no? E quindi non devo fare appello per forza alla religione, alla ragione religiosa, e quindi a, diciamo, dei criteri mistici, ma al contempo questa ragione scientifica ci lascia un po' più soli, nel senso che comunque non si occupa di sostituire dei rituali o una cerimonia collettiva a quelle religiose che distrugge, che scansa, insomma. Quindi e poi oltretutto la scienza man mano si legherà sempre di più alla, diciamo, al politico ed economico, e quindi sarà una parte estremamente funzionale alla messa in atto di tutta una serie di meccanismi. E infatti con l'affermarsi della ragione scientifica poi emerge chiaramente il ruolo dei medici, della classe medica, che in qualche modo sostituisce, va a sostituire il lavoro che veniva fatto dalla comunità del morente che lo accompagnava in questa esperienza, la quale invece viene messa da parte per affermare appunto il primato della scienza medica sulla decisione, sulle volontà, sui desideri del morente e della sua comunità. Lo stesso fatto, quando parliamo di espropriazione della morte, anche il fatto che la persona che sta morendo, perché in effetti per mantenerla in vita non c'è più niente da fare, poi su questo non c'è più niente da fare, magari ci torniamo se abbiamo tempo, e noi diamo per scontato, no, che non debba saperlo, che la si debba rassicurare, eccetera, non rendendoci conto che a volte questo invece può essere generare una disperazione ancora più grande. Questo è quello che succede normalmente, per esempio, negli ospedali, perché non si fa per, magari, per una, se lo fa un parente, un congiunto, lo fa un po' perché vuole risparmiare magari la sofferenza alla persona che ama, oppure perché pensa che non sia in grado di sostenerlo. Nell'ospedale questo si fa perché non deve rompere le scatole il malato. Uno dei, proprio delle cose, dei pilastri dell'ospedalizzazione è che il malato, la malata, non deve rompere le scatole, quindi è bene che non sappia in realtà quali sono le sue condizioni. Su questo ci sono tante ricerche, per esempio, che riguardano i bambini malati terminali, che hanno dimostrato che i bambini si rendono molto ben conto. Io capisco che, ecco, questo è un aspetto, per esempio davanti a un bambino che sta morendo molti discorsi diventano veramente certe volte così fumosi, strani e incomprensibili, perché è la cosa più inaccettabile che possa esistere. Però anche lì ci si è accorti, chi si è occupato di questo, chi ha vissuto a lungo a contatto con questi bambini, che i bambini spesso sanno e si rilassano anche molto quando, insomma, sanno le cose chiaramente, per cui magari quando si tratta di un adulto a maggior ragione dovrebbe essergli riconsegnato il suo morire, in un certo senso, cioè che lo gestisca come vuole, perché poi può negarlo, certo, e va anche rispettata la sua negazione, ma ci sono tutta una serie di fasi che sono state descritte da una studiosa svizzera naturalizzata americana, che è stata un po' la pioniera di tutto questo ragionamento, però mirato soprattutto a come accompagnare le persone che stanno per morire, ovviamente non di morte violenta, cioè quelle che, insomma, sono malate e quindi hanno un percorso da compiere. Su questo la nostra società, in particolare la società italiana, è molto molto indietro, insomma, non il, la persona che sta morendo certe volte viene negato, non viene, diciamo, inserita nel discorso della sua morte in modo assurdo, però d'altro canto viene considerato come se fosse già morta per certi versi. Tanto è vero che quello che stavi dicendo tu prima, hai detto diciamolo dopo, no diciamolo adesso, perché è una cosa molto interessante quello che dicevi, che quando uno sta per morire eccetera, i medici dicono non c'è niente da fare, no? Certo, e qui per esempio la lingua inglese ci viene in soccorso, perché a differenza della nostra due termini che sono to cure e to care. To cure è curare, nel senso che gli diamo noi. Al nord si usa anche nell'altro senso, no? Ti curo, sì. Ti sto attento, ti faccio stare bene. E to care, che invece vuol dire assistere, adesso non mi viene esattamente, prendersi cura, bravissima, esattamente questo, no? Che è qualche cosa che per la classe medica non ha senso, è incomprensibile. Qui c'è anche un atteggiamento diverso spesso da parte di infermieri, che hanno un contatto molto più umano, spesso molto più vicino, no? E più quotidiano ai malati rispetto ai medici. Il fatto è che quando dicevo stai per morire, sei come già morto, e questo ci introduce anche all'aspetto di che cos'è in realtà l'essere umano in questa società del capitale, che il sociologo che ho citato prima chiama bottegaia, secondo me in modo assolutamente efficace. Non se ne abbiano a male i bottegai che magari stanno ascoltando, ma nell'accezione comune, no, rappresenta proprio quel modo un po' meschino e solo interessato, tutto merce, no? Sì, quindi il morto non consuma più, non certo. Serve più a niente, non interessa, no? Non è, quindi è proprio. E su questo ovviamente poi ci si innesta l'altro discorso, che sfioriamo soltanto stasera perché sennò non ne usciamo più vive che è quello che invece no, invece non è nemmeno così, non perché gli si dia un valore, perché questa società all'essere umano non dà nessun valore e lo dimostra continuamente, ma perché anche nella fase del morire si può tirare fuori qualche cosa. E questo lo diceva Ziegler già nel 72 quando scrisse questo libro, e adesso ovviamente è già tanti anni dopo, questa cosa è chiarissima, è sotto gli occhi di tutti, perché ovviamente c'è tutta la struttura degli espianti e dei trapianti, che ti fa capire anche come invece pure sul punto di morte puoi servire ancora a qualche cosa. Lo sfioriamo soltanto perché è un argomento insomma grosso. Ziegler scrive a 4 anni dal documento di Harvard, nel quale è un documento che viene fatto praticamente d'imperio, perché la società medica non riusciva a mettersi d'accordo sulla questione del fine vita quando il cuore ancora batte, per cui è stato necessario fare un protocollo che decidesse quando, un anno dopo il primo trapianto di cuore fatto a Città del Capo da Christian Barnard, fra l'altro sopravvisse 2 settimane, questo qui c'aveva un nome polacco che non ricordo, e quindi in pochissimo tempo fu necessario fare questo documento, che dà appunto una serie di indicazioni che poi sono state modificate nelle legislazioni dei vari paesi, anche il nostro, negli anni, per poter dichiarare una persona morta e quindi poter procedere all'espianto degli organi. Prima di chiudere la prima parte, perché questo discorso che ha aperto la compagna lo riprenderemo nella seconda, io volevo spendere 2 parole ricollegandomi al discorso che aveva fatto prima Margherita riguardo al l'inserimento del procedimento scientifico nel rapporto con la morte, e la praticamente specializzazione e il tecnicismo di tutta una serie di saperi. Questo ne volevo parlare proprio in funzione, diciamo, del nostro specifico, cioè tutta una serie di cose, come il lavoro di cura è ancora diciamo destinato purtroppo alle donne, ed è uno specifico delle donne, il lavoro di cura e il lavoro riproduttivo. Questa società continua a essere estremamente ruolizzata ed è funzionale proprio la società del capitale e la dualizzazione. Però prima del capitalismo sapere che riguardava il corpo, la nascita, la malattia, la morte, era in mano in effetti alle donne, cioè le donne erano portatrici di tutta una serie di saperi di cura e di gestione della vita, di cui faceva parte anche poi il percorso della morte, cioè la cura dei malati, la cura la vestizione del lavaggio del corpo del morto, della morta, la cura del moribondo. E, in un rapporto molto più diretto e ravvicinato tra vita e morte, cioè era come se la morte terminasse un percorso naturale in cui era inserito tutta una serie di gestione del quotidiano. In questo senso, per esempio, il fatto che il femminile fosse depositario del lavoro di cura, cioè c'è un tipo di funzione che aveva un certo tipo di donne, soprattutto ci viene tramandata in Sardegna, di donne che avevano, che giravano per i paesi, si chiamavano accabadore, ed erano quelle che erano chiamate per dare la morte alle persone che erano in agonia, che avevano un'agonia troppo lunga, che non riuscivano a morire. Ed era proprio un tipo di ruolo che veniva destinato per esempio a donne sole, a vedove, che in questo modo ritrovavano nella società una collocazione, una destinazione e anche un rispetto, no? Perché c'è sempre questa discussione sul, cioè nelle società arcaiche, sulla donna sola, che è un soggetto anomalo, no? E allora le accabbadore andavano in giro per i paesi, anzi venivano chiamate, e questo addirittura fino a qualche caso è successo anche negli anni 50 e 60 in Sardegna, e aiutavano a morire le persone che avevano una lunga agonia, tant'è vero che nel comune sentire venivano chiamate l'ultima madre. E tutto questo, per esempio, è stato portato, sottratto, tutto questo sapere femminile è stato sottratto alle donne e dato dalla società del capitale agli esperti. Beh, possiamo pensare anche anche per esempio alle veglie tradizionali, no? In alcuni casi sopravvivono anche, soprattutto nelle zone rurali, penso anche alla Sicilia, in posti insomma dell'entroterra, in cui si dà un'importanza fondamentale all'accompagnamento appunto del morente, e ci sono proprio le donne che vegliano sia durante, insomma prima del trapasso, che poi dopo, cosa che negli ospedali è proibita, perché non puoi restare la notte con il tuo caro che è morto, non puoi vegliare, no? Poi ognuno lo fa per le proprie credenze personali, però invece in alcune zone rurali appunto sopravvivono, e io come immagine ho proprio, oppure le immagini più fruibili sono proprio di donne che piangono, si battono il petto, si ribellano, esprimono il loro dolore, e lo fanno anche mentre il morto, cioè il morto è ancora morente, insomma non, certo, non è morto, c'è questa commistione tra vita, certo, e morte. Allora, saltiamo la parentesi che oggi sarebbe stata sulla NATO. La potete comunque trovare sul blog, la carichiamo domani, e mandiamo uno stacco musicale e poi passeremo alla seconda parte. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Cominciamo la seconda parte che noi avevamo volevamo dedicare specificatamente alle modalità con cui si muove il capitalismo, in particolare il neoliberismo, che il neoliberismo vuole normare ogni aspetto della vita e della morte, e quindi ha introdotto questo pericolosissimo concetto di morte cerebrale di cui aveva parlato già la compagna nella prima parte. Praticamente la morte cerebrale è una morte che non è determinabile naturalmente, se passateci questo termine in maniera abbastanza superficiale, però naturalmente, bensì è una morte decretata al tavolino e normata per legge. Ed è un principio pericolosissimo, perché lo Stato si arroga il diritto di normare ogni aspetto della nostra vita. Oltretutto, questa è una società basata su un'immagine di eterna giovinezza e salute, no? Gioca su due binari: da una parte eterna giovinezza e salute, e allo stesso tempo però è una società che semina morte su scala industriale, perché toglie le garanzie sociali, promuove la modalità violenta dei rapporti fra i poveri, affoga i migranti in mare, fa le guerre neocoloniali, no? E quindi su questi due binari si sviluppa il concetto di tutto quello che è possibile mercificare è usabile. Tant'è vero che un attimo fa ha telefonato un compagno che voleva dire che dato che in questa società tutto è merce, anche la morte viene ridotta a merce, per esempio a business più che merce, no? A problema finanziario, con il problema col business delle assicurazioni, con tutto quello che concerne per esempio la paura e l'insicurezza che dà la morte. Sì, quello che faticosamente, perché non è un concetto semplice, avrebbe veramente bisogno di tanto tempo, però qui appunto cerchiamo così di cominciare a porre il problema. L'immagine che la nostra società attuale ci rimanda della morte non è un'immagine che vale per sempre, un'immagine assoluta. Questa società strumentalmente e volontariamente ci dà una serie di categorie che ci fa credere siano avulse dal contesto economico e sociale, e la morte è una di queste, come per esempio l'amore, eccetera. In realtà non è così, e le immagini che ci dà della morte, come abbiamo cercato, speriamo insomma, in maniera comprensibile di dire, sono le immagini che questa società ci vuole dare della morte. La esclude, per cui automaticamente ci ripropone, per esempio, anche qui è un grande affare economico, il mito della giovinezza eterna. Diceva Anna Magnani, quando le dissero ma non fai niente per le rughe, questa insomma è una cosa che sanno, dice come ci ho messo tutta la vita per farmele venire, no? Questo rifiuto assoluto dell'invecchiamento che vediamo soprattutto in chi fa professioni che magari impongono fra virgolette la presenza fisica, ma anche perché da queste professioni poi trae anche la sostanza per poter poi mantenersi fino ad arrivare a delle assurdità, interventi chirurgici eccetera. Questo mito dell'eterna giovinezza, che alla fine diventa appunto anche grottesco, è ovviamente l'altra faccia del rifiuto della morte. Qualcuno diceva, non so chi, è una frase che ho letto da qualche parte: gli uomini hanno paura della morte, le donne di non arrivarci in perfetta forma, per esempio, no? Cerchiamo di alleggerire un po'. Sì, noi siamo tutti modelli costruiti. Che per certi versi, insomma, diciamo, se questo in perfetta forma vuol dire insomma che funzioniamo, che possiamo fare le cose che ci piace fare, sicuramente lo possiamo condividere. E un altro mito di questa società è che la morte sia assoluta, quindi uguale, qualche cosa che livella, come diceva Totò nella famosissima poesia, che livella. Non è vero per niente, ma questo è anche banale ricordarlo, però magari non ci si pensa. La stessa speranza di vita non è uguale per tutte le classi, il modo in cui si muore non è uguale per tutte le classi, assolutamente. che vi posso dire, Schumacher si trova adesso in un coma, credo de passé, o non so, che è il coma più profondo, perché stava sciando. E i morti dell'Eternit, di cui c'è stato un processo appunto abbastanza di recente che si è concluso, non stavano sciando, stavano in fabbrica, e oltre al fatto già di per sé orribile di dover stare sotto padrone a fare un lavoro salariato, questo lavoro li uccideva anche più velocemente di quanto magari lo stesso lavoro salariato possa fare, più tutta l'industria che vive sulla morte. E se voi fate zapping magari su certe televisioni, un po' quelle un po' più scrause così eccetera, trovate che comincia a esserci anche in Italia la pubblicità delle agenzie funebri, cosa che negli Stati Uniti va avanti da tantissimo tempo, eppure lì c'è, ovviamente non si capisce perché una persona debba essere sepolta in una cassa particolare che arriva a cifre incredibili, quando in effetti, cioè, non, quello veramente non se ne vede proprio proprio lo scopo. E su questo, ovviamente, pure su questo c'è, questo è proprio palese, anche qui sembra banale dirlo, c'è ovviamente negli ospedali ancora succede che non fanno, a parte che ti telefonano e ti dicono che il tuo congiunto sta molto male e tu capisci benissimo che è morto, non si capisce perché non ti dicono che è morto, hanno paura che non vieni a prendertelo, cioè non lo so, a meno che tu appunto non stia lì, ma questo è molto difficile, anche questo passa per le classi, perché è vero che certe volte che negli ospedali non si può stare la notte, ma a volte, specialmente nei reparti a lunga degenza dove stanno gli anziani, è favorita questa cosa, così gli sgravi dell'assistenza, per la quale è giusto che il congiunto stia con la persona che sta male, ma come assistenza affettiva invece ti viene delegata anche quella infermieristica che tu non sei assolutamente in grado di fare, c'è tutta una manualità, delle cose che non sei stato proprio istruito a fare. E arriva subito, appunto, tu arrivi che ti hanno telefonato, ci metti il tempo che ci metti e trovi già lì le persone dell'agenzia funebre, tu sei in una situazione assolutamente vulnerabile e quindi non te vade che ti metti a cercare quello che costa di meno cosa, e lo dai a loro, perché comunque l'incarico, intendevo, non il corpo, per cui, e poi praticamente pure il corpo, anche il corpo ovviamente, per cui niente, tu vedi questa persona sul letto d'ospedale, perché non so dirvi la percentuale, ma ovviamente è il numero più alto di morti, e poi la rivedi dentro questa cassa che tu hai scelto, immaginate come, con questo velo che la copre, coi vestiti che tu hai consegnato, e quindi tu non, è come se un passaggio assolutamente che ti manca, perché la morte riguarda chi sta morendo, ma una volta che è morto, e anche mentre sta morendo, riguarda soprattutto i vivi. Diceva qualcuno, la morte è un segreto che viene rivelato a uno per volta, no? Quindi a me viene un'osservazione che riguarda proprio la vecchiaia, quello che stava dicendo la compagna, che o la vecchiaia, siccome in questa società, cioè che è caratteristica proprio della società neoliberista prima ancora di quella capitalista, è un livello ideologicamente più spostato verso una dimensione mercificata di tutta la vita. E la vecchiaia o è merce, quindi o è possibilità di far business sotto tutti i punti di vista, oppure per la prima volta nella storia la vecchiaia non ha nessun ruolo sociale, perché per la prima volta nella storia essere depositari di saggezza o di esperienza di vita da tramandare e da utilizzare non ha nessun senso, perché è l'esperienza immediata, la novità tecnologica dei giovanissimi che viene sfruttata, e anche la capacità di proporsi, l'inventiva, e già i giovanissimi a 30 anni non sono più giovanissimi, non sono più buoni, quindi... Però anche qui c'è a parte che pure questo è un discorso di classe, ovviamente, perché certo, poi c'è la gerontocrazia, no? Per cui c'hai, però pure qui attenzione, perché poi anche qui diventano valori assoluti la vecchiaia o la giovinezza, intesi ora in un senso negativo, ora in un senso positivo, no? Mentre invece ovviamente non è così, non possiamo dire che tutte le persone anziane sono sagge oppure sono da rottamare, come dice qualcuno, e tutti i giovani sono portatori del nuovo. Il nuovo non esiste, il nuovo è un vestito nuovo, ci sono concetti, idee che vanno visti ognuno. Poi è vero quello che dicevi, la vecchiaia però pure questa diventa merce. Se voi guardate la televisione, i pannoloni, le dentiere, e adesso non mi viene in mente altro, le sedie che salgono sul corrimano della scala, insomma la doccia invece della vasca, perché sennò caschi e ti rompi il femore. E questo anni fa non era così, quindi sicuramente c'è un allungamento della vita, ed è giusto pure che chi non c'ha i denti porti la dentiera. Io non è che voglio dire che questo, che anche perché insomma non sono più dalla parte della dentiera personalmente che da quell'altra, però pure questo fa insomma riflettere. Cioè il capitalismo, ricordiamocelo sempre, il neoliberismo come lo chiami tu, che non sono in contraddizione ovviamente, no, tutt'altro, però è una fase specifica, mangia tutto, lo mastica, gli tira fuori quello che, e poi lo sputa, o scusate il termine, o lo caca, cioè, però è capace veramente. Quello che non può assolutamente ingoiare, masticare, sputare è la rivoluzione, passatemi questo termine, certo. Cioè la consapevolezza di volerlo completamente scardinare. Quello sì, ci prova, fa, ma insomma a livello estremamente così superficiale. Quello non, quello c'ha solo un modo per masticarlo, cioè cerca di masticare in senso concreto chi questa, cioè, cosa la pratica nel senso più brutale. Ricordiamoci sempre comunque che tutto questo discorso che abbiamo fatto noi è per una società occidentale, certo, perché, certo. Tutto questo discorso vale nella società in cui noi siamo infilate, comunque una società impostata sulla centralità occidentale, perché tutto questo viene anche esportato nei paesi del terzo mondo, che però hanno tutti altri percorsi, se non altro, di resistenza. Per dare un'idea pure a contrasto, no, di come sia un paradigma completamente occidentale questo, appunto, no, della insomma della morte vissuta appunto come qualcosa che va esclusa dall'esperienza sociale, di cui non può essere detto, di cui che non può essere affrontata in maniera collettiva, di cui bisogna imbarazzarsi, vergognarsi, eccetera. E quindi la morte in realtà viene sostituita da questa malattia, cioè la nostra popolazione è invecchiata, la vita si allunga, però sorgono nuove malattie, ci sono anche quelle incurabili. E come dicevamo prima, no, questo punto ci sta molto a cuore, quando si è davanti a una malattia incurabile si dice non c'è più niente da fare, e questo è il paradigma occidentale, perché il medico è limitato, è impossibilitato, no, nel suo delirio di onnipotenza, perché non può sconfiggere quel male e quindi non c'è più niente da fare. Mentre invece, ad esempio a Cuba, dove sappiamo tutti che la ricerca medica è molto avanzata, è uno dei punti forti insomma della rivoluzione cubana, e ha sintetizzato negli ultimi anni dei medicamenti che chiamano vaccini antitumorali, che non hanno niente a che vedere con i vaccini che intendiamo noi, cioè non sono preventivi del tumore, del cancro, eccetera. Non si occupano quindi di una prospettiva di guarigione, io riuscirò a farti uscire da questa malattia terminale, ma si occupano proprio di migliorare la qualità della vita di una persona che è affetta da questa malattia. Cioè si tratta invece in quel momento proprio di prendersi carico di tutto quello che c'è da fare per una persona che è malata. Mentre, e per dire quanto invece l'Occidente non ce la fa proprio a pensare in questi termini, quando è uscita fuori questa notizia tutti i giornali occidentali titolavano "trovata la cura contro il cancro". Non è nessuna cura, è proprio un cambiamento di paradigma e di accompagnamento, insomma. Poi un'ultima cosa che volevo dire è che non vorrei che ci fosse l'equivoco che stai davanti a una persona che sta per morire e gli dici brutalmente "guarda, te mori", non come nella barzelletta famosa ha detto il medico che devi morire. Non è questo, c'è tutta una sensibilità ovviamente che bisogna imparare, perché che ovviamente nasce dalla propria esperienza, non è che si può insegnare a scuola, che però nasce proprio da tutto un discorso precedente sulla morte che i medici, perché l'affrontano comunque quotidianamente, dovrebbero innanzitutto comprendere. ovviamente c'è tutto il discorso dirlo, non dirlo, eccetera, no? Questo appartiene alla sensibilità, eccetera, senza partire ma dalla capacità anche di, perché non è detto che un parente sia in grado di stare vicino a una persona che sta morendo, non è detto assolutamente, magari se la, lo può fare molto meglio un fra virgolette estraneo, e questo diciamo, ecco, volevo un po' sgombrare il campo da questo, ma è un discorso molto molto ampio, e spesso per l'esperienza insomma delle persone che hanno affrontato non la morte perché non ce lo possono raccontare, ma questo passaggio vicino ai morenti, spesso è meno drammatico di quello che si pensi. Forse il dramma è molto spesso più nelle persone che stanno vicino, cioè l'angoscia eccetera, che nella persona che se ne sta andando. Uso anche io questo perché in fondo sta andando da qualche parte in qualche modo, no? Sta cambiando, certo, il suo stato, sta andando da qualche parte, ne è protagonista, e questa suo essere protagonista che gli va restituito. Comunque, tanto per terminare con un'osservazione sul lutto, volevo fare due note sui morti di guerra, cioè nella stagione di come nella stagione neoliberista il lutto venga rimosso a tutto campo. Per esempio, no, quando c'è stata la prima guerra mondiale, in cui sono stati uccisi tantissimi soldati che poi sono stati la maggior parte dei caduti, soldati anche appunto se erano contadini di fatto, non erano soldati veri, ma sono morti, sono state fatti monumenti. Se voi avete visto, in tutti i paesi d'Italia ci sono, è stata messa in scena la glorificazione dei caduti, no? Cioè c'è il monumento ai caduti, ci sono stele, lapidi, nomi incisi, no? Su ogni piazzetta. Questa manifestazione c'è stata anche nella Seconda Guerra Mondiale, ma molto meno. Cioè la Seconda Guerra Mondiale è una guerra che ha visto tantissimi morti civili, e il fatto e la glorificazione, diciamo, dell'eroe, del lutto e comunque del soldato è stata molto più sottotono. Ci sono le lapidi, sì, qui e là magari, che glorificano certe battaglie, certe, però non è il caduto qualunque che viene ricordato nella sua città, no? E forse questo già perché si vuole anche censurare il grande numero di caduti civili, per esempio, perché altrimenti si sarebbero dovuti fare, se non altro, dei discorsi in questo senso. Adesso in Italia, diciamo, ancora noi siamo neoliberisticamente arretrati, usiamo questo termine, però negli Stati Uniti, che sono lo stato del capitale da cui ci vengono gli input ideologici e culturali, il lutto di guerra è diventato una questione individuale. Cioè non viene più propagandato il soldato morto, non vengono più mandate le immagini alla televisione, non viene più pubblicizzato, le bare tornano nel silenzio, anche perché ormai tornano da scenari di guerra estremamente diversificati. Di solito poi sono tutte diciamo fra virgolette povera gente, e quindi questa dovrebbe essere una riflessione. Sono tutti io sono rimasta colpita moltissimo dal fatto che ci siano i messicani poveri che si vanno a arruolare per pagarsi l'università, voglio dire, aiuto, no? Cioè qui si aprono scenari di classe da paura. Comunque i soldati morti tornano nel silenzio, e la gestione del lutto è individuale, cioè il soldato torna, viene preso dai familiari, nessuno ne propaganda la morte, e la gestione individuale. Quindi in questo modo quello che diceva la compagna prima, che la morte non è soltanto una cosa che riguarda i morti, ma una cosa che riguarda i vivi, ci fa capire quanto questa società abbia trascinato, a meno che non sia appunto un business, tutto quello che è problema collettivo a problema individuale, sul piano individuale. Io rubo 5 secondi a Elettrodo, che gli voglio tanto bene, e dico però che rispetto a questo ci sono noi abbiamo perso la guerra, noi come noi sicuramente l'abbiamo persa anche se l'avevamo vinta, e quindi questo forse un po' è sulla retorica del caduto per la patria c'aveva poco da fare, però ci sono per esempio il cosiddetto sacrario di Puglia con i caduti americani, c'è il cimitero Anzio, le guerre che hanno coinvolto gli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, per quanto per il Vietnam è diverso, c'è tutta quella lapide enorme nera. Lì in Vietnam si sono accorti di avere sbagliato. Esatto, queste sono guerre che sono pure per loro difficili da gestire, quindi tutta una certa retorica. Anche la retorica sui caduti. Beh, certo. E loro si sono accorti. Però l'hanno mantenuta, però l'hanno fatta, e qualche film, eccetera, questa cosa viene riproposta. Su queste le guerre dall'Iraq in poi. È un po' più difficile da gestire, cioè gli stessi americani poi insomma di metterci che combatti per la patria è un po' più complicato. Saremo a vedere questa prossima avventura che succederà, ecco, facendo i debiti scongiuri. Beh, come però nel frattempo le vittime civili dei conflitti che ci sono adesso in Medio Oriente, nell'Est Europa, in Africa, no? I giornalisti che vengono adesso uccisi dall'ISIS, cioè quelli invece vengono a meno che fortemente non sia propagandati, perché dipende. A meno che non sia funzionale, perché una cosa è il morto che serve alla propaganda, una cosa è il morto di guerra. Va bene, chiudiamo questa trasmissione, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Trovate tutti i materiali sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org, e se volete scriverci coordinamenta@autistiche.org. Ciao a tutte e ciao a tutti. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be beheaded. They must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Out the watchword.